Niente, questa è la quinta serata della rassegna, sarà per i ristenti. Stasera appunto qua con noi Daniele Peppino, e appunto il libro che verrà presentato è Delta Rivolta, pirateria e guerriglia contro multinazionali del petrolio in Nigeria, un libro edito dal centro dei compagni, dal compagno del centro di documentazione di Torino. E niente, adesso appunto sarà un momento in cui Daniele potrà presentare, dopo guarderemo un film di una sessantina di minuti e poi ci sarà un momento appunto di condivisione, di discussione un po' riguardo tutto questo lavoro di ricerca che è stato fatto, questo importante, questo documento. E niente, adesso non voglio dilungarmi troppo e lascio la parola direttamente. Lo ringrazio per essere venuto qua al Molino Lugano. Grazie. Ma si sente anche senza microfono? Sì. Dunque, allora io appunto, come diceva il compagno prima di vedere il filmato, farei giusto un'introduzione sulle ragioni per cui abbiamo deciso di pubblicare questo libro, e un'introduzione un po' in generale. Poi se ci sono domande, interventi, insomma dibattito, lo terrei dopo il film, che può anche dare degli spunti per la discussione. Vabbè, l'idea di questo libro nasce un paio di anni fa, ormai anche qualcosa di più, in seguito a delle notizie di cronaca che siamo venuti a sapere dai media, qui dai media italiani, e cioè il sequestro di alcuni tecnici dell'AGIP, del gruppo ENI, appunto in Nigeria, nella regione del Delta del Niger. Siamo venuti a sapere di questa azione da parte dei gruppi della guerriglia nel Delta del Niger, e la cosa ci ha incuriosito, possiamo dire, ci ha incuriosito la notizia in sé, anche l'atteggiamento che l'ENI ha tenuto rispetto all'episodio, che è stato sostanzialmente quello di cercare di mettere tutto a tacere pagando un riscatto che peraltro i guerriglieri avevano fin dall'inizio dichiarato di non volere, cioè di aver effettuato un'azione non per a scopo di lucro, diciamo a scopo di estorsione, ma proprio per far sapere all'opinione pubblica internazionale e italiana in particolare quello che la nostra compagnia di bandiera stava facendo sulle loro terre. Quindi in qualche modo ci siamo sentiti anche chiamati in causa, nel senso che mi sembra doveroso, possiamo dire, da parte dei compagni qua, del movimento che si dice internazionalista, perlomeno informarsi, sapere che cosa succede, prendere posizione, far vedere che non tutti gli italiani sono allineati sulle posizioni del proprio governo di fronte a degli episodi di resistenza di questo tipo. E quindi abbiamo cercato di approfondire un po' di più quello che per quanto era insomma le nostre possibilità, i nostri mezzi di informazione, abbiamo cercato di approfondire un po' meglio quello che sta succedendo in questa regione, e pian piano raccogliendo materiale ci si è presentata una resistenza molto particolare che ha meritato insomma qualcosa di più di quello che pensavamo di fare inizialmente. Inizialmente pensavamo un breve opuscolo di controinformazione, poi pian piano con l'aumentare della ricerca e del materiale è venuto fuori un vero e proprio libro, che è questo che abbiamo pubblicato. Quello che ci ha spinto a pubblicare il libro appunto sono diverse particolarità che caratterizzano questa resistenza nel Delta del Niger e la situazione in generale. Infatti c'è sicuramente una questione ambientale e sociale contemporaneamente che è abbastanza agghiacciante. Su questo, cioè sui danni ecologici, sul disastro appunto ambientale che l'area sta subendo grazie a tutte le varie multinazionali e la nostra ENI, non mi dilungo tanto perché, in parte perché sono fenomeni che sono abbastanza prevedibili e purtroppo sono abbastanza diffusi e caratterizzano un po' tutte le quelle nazioni, in particolare quelle ex coloniali, che loro malgrado sono ricche di risorse e che l'Occidente sta sfruttando. E poi, insomma, non mi dilungo perché dopo vedremo il filmato che abbiamo anche deciso di dare, cioè di accompagnare a queste presentazioni, proprio perché attraverso le immagini ci è sembrato che, insomma, facesse capire bene qual è la situazione e qual è il disastro ambientale lì. La particolarità di quella regione, che è appunto anche l'aspetto su cui ci siamo concentrati di più nella ricerca, è, come dicevo, la resistenza che le popolazioni di quell'area stanno ponendo a quest'opera di sfruttamento continuo delle risorse petrolifere, uno sfruttamento che va avanti da mezzo secolo. Le prime trivellazioni, le prime scoperte, le prime estrazioni di petrolio avvengono alla fine degli anni 50 e fin da allora si hanno notizie indirette, possiamo dire, di una resistenza da parte delle popolazioni locali. Infatti, se non si hanno insomma, informazioni precise su quanto avviene, quello che si sa con certezza è che già negli anni 60 e poi 70 il governo nigeriano ha emesso un decreto legge che puniva con la pena di morte qualunque azione finalizzata ad ostacolare l'estrazione e la commercializzazione del petrolio. Quindi questo ci dà già l'idea di una conflittualità già diffusa all'epoca. C'è poi qualche notizia vaga sugli anni 70-80, quello che l'episodio, diciamo, che salta un po' più agli onori delle cronache internazionali e che per la prima volta fa conoscere al mondo intero la situazione del delta del Niger, avviene a metà degli anni 90 con l'impiccagione di alcuni leader di un gruppo, il MOSOP, cioè il Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni, che è una delle tante etnie che abitano la regione del delta del Niger, che è appunto una foresta di mangrovie alle foci del fiume Niger, dove il fiume Niger sfocia appunto nel Golfo di Guinea, nell'Oceano Atlantico, ed è abitata da diversi gruppi etnici e tribali, spesso anche in conflitto tra di loro, un conflitto su cui sia le multinazionali che i governi negli anni, nei decenni, hanno spinto abbastanza per cercare di, insomma, per usare il classico metodo coloniale di favorire un gruppo etnico piuttosto che un altro, di cercare di comprarsi un capovillaggio, metterlo contro gli altri. Per la prima volta, appunto, nella metà degli anni 90, sebbene continuassero e continuino tuttora questi scontri interetnici e intertribali, con la lotta della popolazione degli Ogoni, che era una delle etnie più piccole, peraltro, del delta del Niger, si è verificato una estrema resistenza con manifestazioni represse con centinaia di morti e una minaccia concreta che poi si va a concretizzare negli anni successivi, che è quella di un'unione delle varie etnie, quindi, o perlomeno un superamento delle conflittualità tra i gruppi etnici contro le multinazionali del petrolio. Quindi questa è una minaccia che viene sentita come inaccettabile da parte del governo nigeriano e delle multinazionali, e quindi questo movimento degli Ogoni subisce una repressione violentissima, con queste impiccagioni che hanno appunto una risonanza internazionale, soprattutto per il fatto che il MOSOP, questo gruppo, e i suoi leader, in particolare Ken Saro-Wiwa, che era un poeta famoso, scrittore, avevano delle posizioni dichiaratamente non violente, sebbene già allora non tutto il movimento fosse dichiaratamente pacifista, però la sua ala maggioritaria, possiamo dire che era dichiaratamente pacifista, si batteva con metodi non violenti. Dico questo perché di fronte a questo movimento, che comunque appunto anche a seguito di queste impiccagioni, della risonanza, ha suscitato anche in Occidente delle delle mobilitazioni, dei boicottaggi, in quel caso in particolare della Shell, che era la multinazionale che operava nell'area degli Ogoni e contro cui si erano scagliati manifestanti e resistenti. Comunque queste impiccagioni di comunque resistenti dichiaratamente pacifisti aveva suscitato anche nel delta del Niger una sorta di passaggio di consapevolezza da parte di parecchie comunità resistenti. Diverse hanno iniziato a chiedersi se i metodi non violenti fossero sufficienti di fronte a una dittatura che insomma non si faceva scrupoli ad impiccare personaggi appunto dichiaratamente pacifisti. Diversi gruppi hanno cominciato a praticare azioni di sabotaggio delle condotte, degli impianti petroliferi, e pian piano insomma, è cresciuta una resistenza che in mille modi diversi si è espressa anche in altre forme. E soprattutto da allora si è sviluppato un movimento che cercava di andare oltre appunto alla conflittualità tra i vari gruppi. Infatti c'è da dire che, come poi anche nel video in alcuni passaggi verrà fuori, il meccanismo con cui è stata governata la Nigeria in generale, in particolare la regione del delta del Niger, cioè quello che dicevo prima, il tentativo e continuo comprare e creare bande rivali, questo meccanismo che per anni ha riempito praticamente il delta del Niger di armi, creando gruppi di giovani, di disoccupati delle varie baraccopoli, periferie, venivano armati e assoldati sia dai governatori locali per vincere elezioni, per controllare i territori, sia dalle multinazionali per appunto attaccare magari il villaggio vicino o creando delle vere e proprie milizie private. Tutti questi gruppi, milizie, bande giovanili che diciamo erano ben rifornite di armi nel corso degli anni, da un certo punto in avanti, insomma, per i governanti è stato difficile recuperare le armi e hanno cominciato a rivolgerle contro chi gliele aveva date fino al giorno prima. Questo è stato un po' diciamo il meccanismo di nascita della guerriglia nel delta del Niger, nel senso che il MEND stesso, il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, che è la sigla un po' più conosciuta, quella che ha firmato il sequestro dei tecnici italiani e tanti altri attacchi, nasce proprio da un tentativo di federare tutte queste bande di giovani, comunità, gruppi, sette, anche semplici individui o bande delinquenziali, tentativo di federarli per smettere di farsi la guerra tra di loro e per attaccare i veri responsabili dello scempio ambientale e sociale della regione. Questa caratteristica è un po' anche all'origine della forma organizzativa che il MEND si è dato. Dico il MEND in realtà, appunto, il MEND è una delle tante sigle, dei tanti gruppi della guerriglia, è anche il più conosciuto, probabilmente anche solo per il fatto di essersi dotato di un indirizzo email e di comunicare con le agenzie di stampa a livello internazionale, però ne esistono tante altre che magari sono meno mediatizzate, però appunto la resistenza è molto variegata. E comunque dicevo, la struttura anche organizzativa proprio del MEND è profondamente diversa da quella che può essere la struttura classica di un partito armato o di un esercito di liberazione nazionale che chiede l'indipendenza di una regione oppure mira alla liberazione di un territorio, alla conquista del potere in un determinato luogo. Questa caratteristica viene studiata a fondo, insomma, è l'aspetto su cui ci siamo anche concentrati un po' noi nello studio del tipo di guerriglia che avviene lì nei canali, però è un aspetto che viene studiato molto anche proprio dagli esperti dell'antiterrorismo a livello internazionale, cosiddetti analisti della controinsurrezione, che hanno studiato a fondo proprio l'insurrezione del Delta in quanto esemplare di quello che loro chiamano le nuove forme di guerra. L'hanno definita in tanti modi una guerriglia open source, hanno definito il MEND un network, una sigla ombrello, un coordinamento di gruppi, lo stesso MEND si è definito movimento e non il classico esercito, gruppo, partito, e questo ci dà già l'idea di un tipo di organizzazione diversa, nel senso che i vari gruppi che operano sotto la sigla MEND agiscono in una sostanziale autonomia, sia non solo a livello militare ma anche a livello politico, possiamo dire. Sono accomunati dall'ostilità e dall'inimicizia, quindi dagli attacchi contro l'industria del petrolio, però non esiste un manifesto programmatico con appunto un preciso programma politico del MEND. Questo avviene per un po' per tutto l'arcipelago della guerriglia. Questo non solo nel senso che i gruppi, il MEND in particolare, ma anche altri gruppi, hanno un tipo di organizzazione orizzontale e quindi non hanno una leadership che, non a caso dicevo, gli analisti dell'antiterrorismo stanno studiando questa esperienza, proprio perché l'avvertono come una minaccia, il fatto che appunto il MEND sia difficilmente decapitabile da parte di un'azione repressiva. Se infatti il classico partito armato con la sua leadership riconosciuta può essere più o meno facilmente, o comunque può essere stroncato uccidendo, comprando, in qualche modo cooptando la sua leadership, è abbastanza intuitivo che un movimento fluido, come lo stesso MEND si definisce, quindi in cui tutti i vari gruppi agiscono in autonomia, diventa molto più difficile da attaccare e da reprimere. E questo, insomma, si evince anche dal fatto che ormai sono diversi anni che un movimento di questo tipo, una resistenza di questo tipo va avanti, apportando danni significativi, quindi diciamo efficacemente da un punto di vista militare, nel senso che circa un quarto, mediamente un quarto della produzione totale di petrolio della Nigeria viene interrotta dagli attacchi della guerriglia, dei pirati, fino a punte di metà della produzione di petrolio. E se consideriamo che gli Stati Uniti ormai importano dalla Nigeria, dall'Angola, insomma da quella regione della West Africa, la stessa quantità di petrolio che importano dal Medio Oriente, e che gli Stati Uniti stanno sempre più tentando di smarcarsi dalle forniture di petrolio medio orientali, per ovvie ragioni legate all'instabilità e alla resistenza irachena, possiamo dire. Insomma, balza agli occhi quale sia la posta in gioco e quale sia l'importanza dal loro punto di vista di studiare questa guerriglia, di studiare la minaccia che rappresenta. Stavo dicendo prima, mi sono un po' confuso, l'orizzontalità di cui parlavo nell'organizzazione interna del MEND non è l'unico elemento che fa del movimento di resistenza un movimento fluido. In realtà appunto i gruppi della guerriglia, quelli che hanno un nome, rappresentano una parte del movimento di resistenza. Nel libro noi abbiamo riportato, accanto al testo che cerca di analizzare un po' la situazione, c'è una cronologia più o meno giorno per giorno, insomma, che cerca di raccogliere il più possibile i dati sugli attacchi, sulle variazioni della resistenza. Dalla cronologia ci si rende conto di come appunto i sabotaggi e gli attacchi portati dai gruppi più strutturati non sono che una parte di una conflittualità che è quotidiana e diffusa, anonima, e fa parte di un movimento che è legato proprio alla vita sociale quotidiana delle persone che abitano i villaggi nel delta del Niger, nel senso che ci sono, per dire, assalti contro impianti o sabotaggi o occupazioni, per dire, di stabilimenti, con il sequestro di tecnici fatti da gruppi di donne del villaggio che si organizzano entrano in uno stabilimento, sequestrano i dipendenti per chiedere dei posti di lavoro per la propria comunità, oppure avvengono attacchi finalizzati ad avere un generatore o una luce elettrica, l'acqua potabile, oppure con la richiesta di costruzione di ospedali. Questi sono attacchi che avvengono quotidianamente e che ci danno l'idea di una, proprio di una base sociale estremamente conflittuale e quotidiana, che costituisce appunto il sostrato su cui i gruppi della guerriglia operano. E l'altro aspetto che gli analisti, in particolare americani, ma non solo, stanno studiando perché sentono come una minaccia, è rappresentato dal fatto che il MEND, quindi un gruppo tutto sommato ridotto, con armamenti che sì, sono ben armati, ma non è che sono un esercito così invincibile, sta riuscendo a portare, e che opera comunque in una regione circoscritta del pianeta, sta riuscendo a portare dei danni anche, insomma, abbastanza importanti all'economia su scala globale. Gli attacchi del MEND provocano rialzi del prezzo del petrolio sull'intero mercato mondiale. Questo ovviamente a catena significa insomma, danni per l'intera economia globale. E questo, come sottolineano gli stessi analisti, magari leggo un passaggio che è particolarmente significativo. Nel nostro mondo in crescente urbanizzazione siamo sempre più dipendenti dal sistema. Si può visualizzare ciò pensando a una piramide rovesciata. Tutti noi e tutto ciò che facciamo è in equilibrio sulla punta di questa piramide, che rappresenta il sistema che ci fornisce energia, carburante, trasporti, comunicazione, eccetera. Il cuore del sistema è questa punta. Per fare crollare la piramide, tutto ciò di cui hai bisogno è scalzare quel punto. Se un terrorista sceglie il nodo giusto da attaccare, l'intera rete può collassare a cascata, proprio come in una fila di domino. Questa è la paura che trasuda da un po' tutte le analisi che questi esperti, tra virgolette, fanno delle nuove forme di guerriglia, nel senso che questi attacchi, in particolare contro il petrolio, che è ovviamente la base, possiamo dire, della nostra organizzazione sociale, senza il petrolio, senza i flussi di energia, in particolare quello del petrolio, non esisterebbero nulla di quello che conosciamo, che abbiamo intorno, non esisterebbero le città, non esisterebbe l'agricoltura che conosciamo, insomma il nostro mondo, come scrivono, crollerebbe a cascata come una fila di domino. E questi attacchi dimostrano proprio la fragilità di un sistema sociale che spesso avvertiamo come invincibile. Sicuramente c'è un livello di interconnessione e anche di controllo tecnologico impensabile fino a un po' di anni fa, però allo stesso tempo proprio questa globalizzazione, questa interconnessione delle reti, dei flussi di energia, delle tecnologie avanzate, è allo stesso tempo un sintomo di fragilità enorme, e questi attacchi dimostrano come attaccando nei punti giusti, nei flussi vitali che comunque esistono del capitalismo, insomma, le cose si possono anche fermare, o perlomeno in qualche modo gli si può resistere. Boh, questo per chiarire un po' quali erano anche gli aspetti su cui ci siamo concentrati nella ricerca e che mi hanno trovato più interessanti della situazione del Delta. Sicuramente ce ne sono tanti altri, però vabbè, adesso vedrei il film, che è un film girato nel 2007 da un regista greco che è stato lì nel Delta del Niger, ha intervistato vari personaggi, da guerriglieri del MEND a governatori locali, attivisti di gruppi per la difesa dei diritti umani, per la difesa ambientale, insomma ha fatto tutta una serie di interviste, oltre a immagini che fanno un po' capire qual è la realtà. Boh, io vedrei il film, se ci sono interventi lo facciamo dopo. Io magari faccio giusto un aggiornamento sulla situazione, perché il film risale al 2007, appunto, come dicevo prima, però insomma, la situazione in quella regione è tuttora in evoluzione, il conflitto è tuttora in corso. Anzi, c'è stato negli ultimi mesi, in particolare all'inizio di quest'estate, un aggravarsi del conflitto con scontri anche pesanti, con sabotaggi insomma particolarmente efficaci. Adesso, vabbè, per farla breve, nel senso che, giusto per dire che quello che il video cita come un esempio, cioè la strage di civili in un villaggio, in quel caso il villaggio di Okerenkoko, è una pratica che è abbastanza frequente e che continua tuttora. All'inizio di quest'estate c'è stata una proposta di amnistia da parte del governo, che ha sostanzialmente proposto ai ribelli di deporre le armi in cambio della liberazione dei detenuti. Il MEND ha respinto questa proposta dicendo che il movimento esiste per l'emancipazione di tutto il delta del Niger, non di alcuni prigionieri, e che in realtà non si trattava neanche di un processo di pace, benché il governo lo chiamasse così, in quanto liberare alcuni detenuti sicuramente non significava neanche affrontare le cause del problema. A seguito di del respingimento di questo presunto processo di pace, ci sono stati degli attacchi contro i campi del MEND, e come sempre avviene il governo ha dichiarato di aver debellato i guerriglieri. In realtà il MEND stesso ha detto che, essendo un movimento fluido, non ha sostanzialmente subito perdite, perché i suoi miliziani si sono semplicemente spostati nella foresta e l'hanno dimostrato attaccando, affondando delle navi dell'esercito, riprendendo gli attacchi. A seguito di questi attacchi, proprio all'inizio di quest'estate, ci sono stati bombardamenti di villaggi, cioè proprio con gli elicotteri. La Joint Task Force dell'esercito ha bombardato villaggi di civili, e stesse fonti governative parlavano di decine, se non centinaia di morti. Fonti della Croce Rossa, di attivisti dei diritti umani, parlano di un migliaio di morti. E questo anche per sottolineare insomma il silenzio, quasi il livello di censura che vige in Italia su quel che accade lì. Erano i giorni in cui c'erano le manifestazioni in Iran contro i brogli elettorali, in cui le prime pagine dei giornali parlavano di quello: bastava un morto o due in piazza in Iran. Questo senza nulla togliere all'importanza di quegli avvenimenti, però ci dà l'idea di come insomma l'informazione sia completamente asservita a quelli che sono gli interessi. In questo caso in Nigeria, appunto, centinaia se non migliaia di morti civili sotto i bombardamenti, con decine di migliaia di sfollati nella foresta per mesi, che non avevano più villaggi dove andare, semplicemente veniva passato sotto silenzio, se non magari un trafiletto in qualche pagina interna, ma raramente. Questa, insomma, è ovviamente il frutto della presenza e degli interessi direttamente italiani nell'area, che sono ovviamente quelli dell'ENI e dell'AGIP, ma anche di altre imprese, l'Impregilo, e tutta una serie di imprese che operano intorno al settore petrolifero. Quindi, insomma, questo libro era un po' un tentativo di, oltre a raccogliere dei suggerimenti, un po' quelli che dicevo prima, su come una guerriglia di questo tipo, una resistenza di questo tipo, dimostri la fragilità di un sistema sociale che ci sembra spesso inattaccabile. L'altra ragione che ci ha spinto a pubblicarlo è ovviamente cercare di rompere un po' il silenzio su quello che i nostri compatrioti vanno a fare in Nigeria, in questo caso, non solo attraverso lo sfruttamento delle risorse, cioè non solo attraverso l'ENI in particolare, ma anche il governo italiano tutti gli anni stipula dei contratti con il governo nigeriano per forniture di armamenti, di tecnologie, motoscafi, elicotteri vengono forniti all'esercito nigeriano per chiaramente per la repressione dell'insorgenza nel delta, nelle regioni in cui l'ENI opera. Questo è evidente, la stessa cosa che è successa in Iraq, e insomma era la cosa che volevamo denunciare un po' cercando di rompere il silenzio e di dimostrare che non tutti in Italia sono d'accordo, ci sembra insomma il minimo da fare anche di fronte a tutti gli immigrati che da quella regione arrivano qua perché gli è stata espropriata la terra, perché non hanno più di che pescare, di che coltivare, di che vivere nelle loro terre, e insomma quando fuggono a causa nostra dalle loro terre, fuggono nei nostri territori, insomma hanno l'accoglienza che tutti sappiamo. Quindi voleva anche essere uno strumento, insomma, per quanto possibile, di un tentativo di incontro con le persone che fuggono da quella regione, un possibile strumento per conoscersi anche con le persone con i migranti che arrivano qua da quella regione. Bon, io avrei finito, se non so se ci sono degli interventi, delle domande. Ma sì, noi va bene, nel libro, appunto, come dicevo all'inizio, ci siamo un po' più concentrati sugli aspetti della resistenza perché sono quelli un po' meno toccati, nel senso che cioè un po' meno noti, perché sugli effetti dell'inquinamento ambientale qualche ricerca c'è. Mi sto facendo la ricerca, ho trovato un po' di materiale, penso da Amnesty International, a Human Rights Watch, hanno fatto delle inchieste. Sì, c'è una situazione di devastazione, appunto, anche riguardo alla salute. La cosa più frequente, cioè che riguarda sostanzialmente tutti, è un'intossicazione, problemi respiratori legati al fatto che al fenomeno del gas flaring, cioè il gas che esce durante l'estrazione del petrolio, che solitamente viene o reimmesso in terra oppure intubato e utilizzato per il mercato locale. Io, non essendoci un mercato locale che si può permettere l'uso di gas metano, quello che abbiamo noi in cucine, e quindi alle multinazionali non interessa, lo bruciano a cielo aperto, e questo vuol dire piogge acide, vuol dire respirare continuamente. Sì. Sì, quindi danni. Ma intanto magari finisco un aggiornamento perché negli ultimi giorni, l'ultimo mese, sui giornali erano apparse un po' di notizie in relazione a quello che ho iniziato a dire prima, in seguito a questi attacchi poi fatti dall'esercito, queste stragi di civili. C'è stata una ripresa degli attacchi in grande stile da parte dei vari gruppi della guerriglia, e con appunto l'interruzione della produzione fino a dimezzarla praticamente. in seguito a questo, che è andato avanti per un po', il governo ha proclamato un'amnistia unilaterale, cioè ha liberato prigionieri, ha liberato Henry Oka, che era uno dei comandanti, insomma uno dei, un pezzo grosso, diciamo, accusato di essere l'armiere del MEND, che era stato arrestato un po' di anni fa, è uno dei personaggi di cui il MEND chiedeva la liberazione. Quindi c'è stato, diciamo, questa mossa unilaterale da parte del governo che ha favorito un disarmo da parte di alcune milizie. Inizialmente i giornali hanno parlato di della fine della guerriglia nel Delta, della deposizione delle armi da parte dei gruppi del MEND. In realtà alcuni gruppi hanno effettivamente deposto le armi, il MEND ha respinto questa proposta di pace, anzi disconoscendo i gruppi che hanno firmato questo disarmo. Successivamente il MEND, in seguito appunto alla liberazione di Henry Oka, ha dichiarato una tregua unilaterale con il governo. Questo però è un fatto che si è ripetuto, se si legge la cronologia, che si ripete abbastanza ciclicamente, nel senso che ogni tot di mesi il MEND proclama una tregua, poi c'è un conflitto che va avanti abbastanza a fasi, a cicli, da parte dei gruppi della guerriglia. Allo stesso tempo, anche appunto leggendo semplicemente la cronologia, si vede che quando il MEND dichiara una tregua, nei giorni successivi gli attacchi, sabotaggi, sequestri continuano più o meno allo stesso ritmo. Per cui, cioè, questo dimostra che gli stessi gruppi della guerriglia, come dicevo prima, non hanno un controllo complessivo sul conflitto, ma anzi appunto sono una delle espressioni di una conflittualità che comunque continua, comunque diffusa, sicuramente hanno un ruolo anche abbastanza importante, nel senso che comunque evidentemente se il governo cerca di firmare questi accordi, queste tregue, qualche cosa vuole dire, però lì la questione è che difficilmente penso che si possa risolvere, fare dei passi avanti nella risoluzione delle cause di questi problemi. Non so, in alcune discussioni, in presentazioni precedenti, qualcuno giustamente anche chiedeva: ma non converrebbe alle multinazionali o al governo, anche proprio dal loro punto di vista, no? Come convenienza economica per pacificare la regione, non gli converrebbe accogliere le richieste, cioè fornirgli di luce, acqua potabile? Sono tutte cose che effettivamente potrebbe fare, che non fa. Potrebbe fare fino a un certo punto, nel senso che secondo me, come dicevano anche alcuni intervistati all'inizio, non è che c'è un problema di disattenzione o di semplici effetti collaterali o di menefreghismo da parte delle multinazionali. Cioè lì c'è un tentativo pianificato di spopolare una regione. Ci sono regioni in cui, come questa, ricche di risorse, ma anche altre, non so, penso in Colombia o in Cecenia o in altre parti del mondo, in cui ci sono tentativi pianificati di genocidio, perché la sola presenza umana in alcune regioni dà fastidio, in particolare se si ribellano. Per cui, insomma, e anche perché alla fine dei conti è impensabile che, cioè, il capitalismo e i livelli di consumo che abbiamo qua in Occidente, di petrolio ma non solo, sono impensabili distribuiti su tutto il pianeta. Cioè, noi ce li abbiamo grazie proprio al fatto che dall'altra parte dell'equatore la gente muore di fame o viene sterminata. Il capitalismo si fonda su queste disuguaglianze inevitabili. Per cui io penso che le radici di questo conflitto siano difficilmente sradicabili così, sul peso sulle prospettive della guerriglia non saprei, nel senso che ovviamente se rimane isolata e non lo so, lì è un po' da vedere, cioè non mi sento di fare tanto dei pronostici perché dipende da tanti fattori. Sicuramente sono decenni che vanno avanti e hanno dimostrato una tenacia, io ho visto raramente in altre parti del pianeta, poi non lo so. Sì, lì c'è tutta un'economia informale sul contrabbando di... Lagos, dici? Lagos, sì. Però adesso come adesso delle metropoli a livello mondiale, città di Messico, adesso ha un aumento esponenziale, come tutti ha detto il migliore dell'Africa, scappano Lagos, certo. Cresce di un solo un milione l'anno, però sì, si diventa da poco, stanno scappando la dell'Africa, non vale ripensando, sarebbe dorato sì, sì. Sì, a Lagos, ma anche nelle... a Port Harcourt, a Warri, le città grosse del delta del Niger si stanno riempiendo di baraccopoli e... infatti la guerriglia lì ha delle caratteristiche particolari proprio perché è un insieme di cioè la sua base sociale ma anche geografica, logistica è un intreccio tra la classica baraccopoli come non so, penso a Fallujah o nel Messico, e invece comunità di villaggio più in cui persistono ancora legami tribali, etnici, insomma c'è un insieme di questi due elementi. Comunque su una società devastata, nel senso che appunto c'è una disoccupazione impressionante e si sopravvive con contrabbando di petrolio, con spaccio, cioè traffici di droga, sequestri, racket, cioè una società completamente devastata dall'economia del petrolio. Dici... Ma sì, cioè... Sì, sì, mi sembra abbastanza evidente, cioè, a livello dell'informazione così dei giornali, telegiornali, ne hanno parlato nei giorni del sequestro, perché c'era questa emergenza qua. La nostra idea anche è stata, cioè ci è venuta in quei giorni perché ci è sembrato... cioè a me sembrerebbe importante che se si ripetesse, cioè importante in generale in qualunque momento, però io credo che se si ripetesse una situazione di quel tipo in cui appunto dei gruppi della resistenza in quella regione prendono degli ostaggi italiani e ripongono il problema come era stato posto in quei termini, quella volta erano stati 100 giorni di stallo nelle trattative per il sequestro con un'attenzione dei media abbastanza elevata, insomma. E io penso che in un momento del genere, se si ripetesse, se ci fosse in Italia un movimento insomma, che tirasse fuori la questione, che solidarizzasse con la resistenza lì, che tirasse fuori la responsabilità dell'ENI nella regione, che dimostrasse appunto che non tutti gli italiani sono d'accordo, o facesse pressioni, insomma, in tutti i modi che ognuno ha, che preferisce, però io penso che un movimento internazionalista, per una volta che esiste una resistenza di questo tipo, che chiama in ballo proprio degli interessi italiani, penso che in un momento del genere sarebbe doveroso, insomma, perlomeno dire qualcosa. Di movimenti tra virgolette occidentali nostri, c'è qualche gruppo che spalleggia diciamo, questo movimento in qualche modo, oppure sono proprio gruppi indipendenti? Sì, no, lì loro sono abbastanza isolati, nel senso non c'è una rete di sostegno, ma a quanto ne so non c'è neanche tanto una rete di informazione, nel senso che io penso che sì, anzi, cioè per dire, c'è stato un po' di mesi fa, un annetto fa, c'è una battaglia a Nord Europa, a Rosport, contro la costruzione di un impianto offshore della Shell, a Rossport, mi sembra sia in Scozia, adesso non vorrei dire, no, mi sembra, sì, no, quello. Un villaggio di pescatori che sta facendo una battaglia contro la Shell che vuole costruire un impianto di fronte alla loro costa, e il MEND ha fatto un comunicato di solidarietà dicendo che appoggiava, solidarizzava con questi, cioè siamo a sto livello, che sono loro che fanno i comunicati di solidarietà con noi. Volevo chiederti un'altra cosa, come ti ricevi l'informazione, come sei in contatto con la regione? Ma le informazioni le abbiamo prese soprattutto da tramite internet, da quotidiani nigeriani, da varie agenzie di stampa, soprattutto di missionari, perché sono quelli più presenti là, cioè a livello di cronologia, di cronaca di quello che succede. Missionari o, non lo so, agenzie di stampa di Peace Reporter, piuttosto che gruppi di questo tipo, oppure dai rapporti di Amnesty International o di Human Rights Watch, cioè informazioni che comunque abbiamo. Poi ci sono dei siti africani, appunto per la difesa dell'ambiente, in cui riportano ogni tanto dei reportage, delle inchieste, e, insomma, buona raccolta di dati intrecciati da varie parti. Sulla guerriglia, appunto, a parte dei siti africani, in cui pubblicavano i comunicati del MEND nel libro, infatti in appendice, oltre ad altre cose, ci sono anche una raccolta di comunicati del MEND tradotti dall'inglese, e poi ci sono proprio degli studi, quelli che citavo prima, di analisti o dell'esercito americano, o di gruppi così di consulenti dell'esercito, quasi sempre, che appunto studiano le nuove guerriglie, e sul delta del Niger hanno speso diverse analisi proprio per un po' le caratteristiche esemplari, no? Cui accennavo prima, per cui nasce un po' da un treccio di varie fonti anche diverse tra di noi. Una delle fonti che ho visto era questa nostra rete nazionale, perché si dice la dura, non potrà vedere un film che è in terra, non so se c'è stata una guerriglia tra due etnie, una musulmana e l'altra cattolica, e sì. Sicuramente sono professionati di problemi, no? Questo qua viene oscurato, ma se dico nascono problemi politici, sì, cattolici, sì, o religiosi, c'è oscurato un po' il pensiero di quello che sta succedendo, quindi sono importanti, ma sì, sì. Non sappiamo che l'informazione passa un po' di più. Sì, boh, l'idea nostra, oltre alla pubblicazione del libro, vabbè, stiamo facendo un po' di giri di presentazioni proprio per farlo sapere il più possibile. Poi il libro sicuramente, anche se sta andando bene, nel senso che l'abbiamo stampato 1000 copie, adesso ne stampiamo altre 1000, però inevitabilmente ha un giro di diffusione ristretto. E l'idea era di fare anche un manifesto più specifico proprio sulle responsabilità italiane, quindi sull'ENI, incentrato su quello, un manifesto che possa essere uno strumento per diffondere un po' di più l'informazione anche nelle varie realtà che stanno portando avanti delle battaglie, anche perché l'ENI, insomma, anche in Italia ci sono alcune regioni che non dico che siamo ai livelli del delta del Niger, ma nel sud Italia l'ENI ha fatto dei disastri che poco ci manca, cioè sono regioni spopolate a causa delle trivellazioni, tutte le porcherie che hanno fatto, cioè interi paesi che ormai sono spopolati, la costruzione del rigassificatore a Livorno, insomma ci sono delle battaglie che riguardano l'ENI in cui secondo me sono degli ambiti buoni in cui portare avanti un'informazione di questo tipo, o non so, penso anche parlando ad altre presentazioni, era venuto fuori, ci sono dei corsi all'università a Napoli e la presentazione degli studenti mi ha fatto notare che c'era l'università di biologia dove studiavano loro un corso che si chiama Ecologia del petrolio, finanziato dalla Shell, per dire, cioè, ci sono anche questi corsi qua che penso possono essere dei buoni ambiti in cui andargli a dire qualcosa, in cui insomma cercare di informare. Comunque stamperemo sto manifesto prossimamente. Ma dentro il Niger non lo so. Ah, lì, sì, in Angola. No, ma infatti la preoccupazione, anche oltre agli aspetti internazionali, di questa resistenza lì è che cioè va a sparigliare quelli che sono i meccanismi classici delle guerre fratricide che ci sono in tutta l'Africa, no? Che si regge sostanzialmente su questo, cioè sul fatto che sono riusciti a mettere un'etnia contro un'altra, una popolazione, una religione contro l'altra, a creare spaccatura, a fomentare armando una fazione contro... Lì per una volta che c'è un tentativo di fraternizzazione, di un tentativo dichiarato di andare a colpire i veri responsabili, è un esempio che insomma inaccettabile per chi vuole difendere questa situazione, per cui insomma il silenzio è anche comprensibile per quello. Sì, ed è l'aspetto. Boh, se non c'è altro.